Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Eccoci qui, guarda che sono proprio le 8:20 in punto. Bene, caro, sono le 8:20 di questo 22 di marzo. E... vabbè, solidarietà alle famiglie delle ragazze, dico solo questo. E... oggi santi, Santa Lea, poi abbiamo Callinico, Basilissa, Epafrodito. Epafrodito è un vescovo, quindi del IV secolo. E dopodiché, di che cosa si festeggia oggi? Nel 1994, per noi giornalisti, è data importante. Usciva proprio oggi la voce di Indro Montanelli, quando Indro Montanelli disse certo. No al Berlusca. Quindi iniziava il ventennio di Berlusconi da una parte e Montanelli dall'altra, si faceva il suo giornale, che poi tante polemiche suscitò nel mondo moderato del giornalismo e così via. E dopodiché usciva nel 1963 invece il primo album dei Beatles, penso. Ah, il primo che album bella dei cosa. Beatles. Tu c'eri a comprarlo? No, io ho 2 anni ma non lo comprerò ancora. Però io ho sempre tifato per i Rolling Stones crescendo. Ah, ecco, eri un fan dei Rolling Stones. E che devo dire? Devo ammettere che ero, sì. Devo dire che in questo inizio di giornata dedicando ai santi, cosa è successo? Solidarietà ai 3.000 licenziati dei call center da parte di Almaviva. Almaviva, è vero. Che poveri ragazzi, o anche chi non è ragazzo, è più avanti con l'età, ma lavora nei call center, finire per strada. E non è bello, sicuramente. Circola visto su Twitter, io sono Almaviva, per chi usa Twitter, per chi usa questo modo di solidarizzare anche perché ripeto non cioè, capitato forse non so anche a te cioè, io quando ero giovane ho cominciato a fare lavoretti da piccolissimo e senza di quelli non avrei potuto andare via di casa né campare, quindi capisco cosa vuol dire avere poche centinaia di soldini in tasca. E mi auguro anche nel frattempo che le autorità italiane stiano facendo tutto giusto per questa, secondo me, meravigliosa ragazza comasca di 24 anni, Gianna Lanzavecchia, che solidarizza con i curdi e che i turchi hanno pensato bene di bloccare come se fosse lei il rischio. Beh sì, devo dire che le espelleranno credo tra 5 giorni, questo ammetto, si poteva ammetto... risparmiare questi 5 anni di carcere. 5 giorni, scusami se hai ragione, però non credo che sia esattamente in un albergo. No, assolutamente no. E, tra l'altro, a proposito di soldi, visto che hai parlato di soldi, oggi parleremo di altri soldi. Ieri abbiamo parlato dei soldi di Roma, no? Allora io prima mi sono lasciato forse prendere la mano quando ho detto nella segna stampa affondate, cioè cosa dobbiamo fare? Affondate, ma se 300 milioni dovrebbero prendere dagli affitti e ne prendiamo solo 50 e gli altri 250 milioni affitti degli immobili a Roma si vanno perduti, non so, non vengono richiesti. Vengono richiesti ma non vengono incassati, la gente non paga. O non vengono richiesti dalle persone giuste, perché il calcolo che fa il commissario Tronca è che in realtà gran parte di questi denari, complessivamente sul totale delle 28.000 unità immobiliari, si parla di 357 milioni che non si riesce a incassare, perché se ne è iniziati a chiedere una 50ina se ne incassa 25. E la stima è che una percentuale elevatissima di questi mancati incassi dipende dal fatto che nel frattempo negli anni sono subentrati magari persone che non hanno alcun titolo per stare neanche lì e la cui anagrafica non è neanche nota al comune che non se ne è curato, quindi un'incuria totale. C'è il caso dell'avvocato, oggi poi è chiaro che vengono dati in pasto dei casi. Io vorrei sapere anche i nomi, così giusto. L'avvocato che fattura 700.000 euro e paga 280 euro al mese. Oppure quello, il ristoratore di Trastevere, un milione di fatturato e 220 euro di affitto del locale. Va bene così? È andato bene così per anni assieme dei partiti che io mi auguro venga destra e sinistra travolto alle elezioni, perché se non viene travolto neanche di fronte alle prove provate dell'incuria, dell'interesse clientelare, soprattutto, che per decenni ha consentito di utilizzare il patrimonio pubblico per cose di questo genere, quando è che deve essere travolto questo sistema dei partiti se non di fronte a questi dati così importanti? Allora, il Movimento 5 Stelle dipende, deve andare, deve, oh, sentiamo, poi gli elettori decideranno, però c'è un senso che alla fine chi si è alternato al governo delle città senza cambiare questi meccanismi malati perda e la gente dica: piuttosto forse non sarò convinto in tutto e per tutto per alcune delle proposte che fanno gli altri, ma almeno metto gente che non è corresponsabile di questo sistema, non è capofila di questo sistema clientelare, perché è clientela, non è che... Sì, intanto diamo il numero, se volete chiamare su questo. Noi avremo ospite tra poco Alfonso Sabella, che è stato assessore con Marino e adesso fa il consulente di Renzi. Anche questa cosa è un pochino curiosa, gli chiederemo come mai, se è tutto compatibile. Certo che è compatibile, però anche perché io avevo capito che tornava a fare il magistrato, ce l'aveva detto lui. Esatto. E Sergio Rizzo del Corriere della Sera, il numero è 800 24 00 24. Oscar, senti che secondo Berlusconi chi ci vuole per Roma, visto che I politici sono dei campioni delle parole, dei campioni del bla bla bla. Tu hai l'acqua che ti invade la casa. Cosa chiami? Un politico o chiami un idraulico? Ecco, Bertolaso è l'idraulico, l'elettricista che ci vuole per far rivivere Roma. L'elettricista. Breaking news. Sì, è una notizia di pochissimo fa, l'ha data la BBC, una breaking news, parla di due esplosioni all'aeroporto di Bruxelles. Le cause non sono ancora chiare, ci sono delle immagini che mostrano del fumo che sta salendo da uno dei terminal. Vi aggiorneremo nelle prossime edizioni. Allora, questa è la breaking news, la notizia che è arrivata pochissimi istanti fa e ci hanno aggiornato. Allora, ovviamente in questo momento le notizie sono pochissime, però la BBC parla di due esplosioni, due forti esplosioni all'aeroporto di Bruxelles. Queste, Oscar, sono agenzie che ovviamente... E notizie che daremo in tempo reale appena avremo ulteriori dettagli. È chiaro che però... La mente corre immediatamente la lunga coda da novembre a oggi dal Bataclan, i lunghissimi successi a Molenbeek in Belgio, eccetera, eccetera. Adesso l'arresto di Salah e l'aspettativa che c'è evidente della sua collaborazione per identificare nuove cellule, nuovi nuclei e nuovi cooperanti nell'attentato, perché a distanza di mesi non erano stati rintracciati tutti coloro che hanno cooperato all'azione Bataclan. Nel frattempo, tanto per capire quanto unita l'Europa, si è anche scatenata una bella polemica frontale che anche ieri ha diviso i vertici della magistratura del Belgio da quelli della Francia, perché la Francia chiede che Salah sia estradato e giudicato in Francia, ed è una delle condizioni che invece ha posto agli inquirenti del Belgio Salah, è quella di dire: non mi fate andare in Francia. Certo. Adesso vediamo di che cosa si tratta, ovviamente. Vediamo, però insomma, ripetiamo, due esplosioni sono state registrate, leggiamo dalla BBC in diretta, all'aeroporto Zaventem a Bruxelles. Ci sono immagini anche di fumo, qualche testimone, ma non ancora confermato, parla di feriti, di persone coinvolte. Al momento non si capisce l'origine e la causa di queste due forti esplosioni. Vi terremo assolutamente aggiornati sia nel corso di questa trasmissione sia più avanti, Oscar. Ovviamente noi stiamo parlando di altro, però questa notizia daremo un occhio a qualunque cosa esce fuori per informare gli ascoltatori. Tornando alla questione di Roma, tu dici clientele assolute. Ma tu puoi pensare che su 28.000 unità immobiliari sia l'incuria, secondo te? Ah, no. È chiaro che qualcuno ci ha marciato. Poi voglio dire, un grande comune che non ha risorse, come non ha risorse da molti anni Roma, che è stata salvata più volte, c'ha il suo debito gestito separatamente, dovrebbe... è ovvio che avrebbero dovuto concentrarsi sulle unità immobiliari che servono per l'housing sociale, cioè per offrire una casa a chi ha davvero poco reddito e a bassi canoni. Se tu vedi le unità, le centinaia di unità immobiliari del centro, sono invece gente che ha molto reddito e hanno comunque bassi canoni, ma non è assolutamente il tipo di casa che serve per fare housing sociale, cioè quei tipi di case lì, il patrimonio che va ceduto per concentrarsi proprio nella missione che invece dovrebbe essere propria del pubblico, no? E che poi a Roma invece non si esercita, cosa da male. Sì, tra l'altro la cosa che per esempio mi ha molto colpito è leggere di questo pensionato che non solo dovrebbe pagare 200 euro con affaccio al Colosseo, ma per 22 anni non li ha pagati, cioè c'è anche lo sprezzo nei confronti di... Tu non me li chiedi, io non li pago, magari mi faccio pagare, subentra qualcuno di diverso, di ignoto al comune che mi versa dei soldi per subentrare, e questa cosa qua... Questo succede, ci vuole l'idraulico, come dice Berlusconi. È un po' singolare sentire Berlusconi, comunque da qualcuno che fa politica, dire che i politici non fanno solo bla bla bla. Consunta o copione questo di Berlusconi, che lui non fa politica, non è politico, non ha i difetti del politico, e lui ha avuto il peggior difetto, quello di essere inconseguente rispetto alle promesse che cui raccoglieva i voti, non essere mai riusciti a tradurre in realtà, quindi sai, più politico di così. È chiaro. Allora, qua al momento non ci sono altri dettagli se non quello che la BBC Online ha diffuso, cioè la notizia di due forti esplosioni all'aeroporto di Bruxelles. Stiamo ovviamente a verificare, le agenzie riportano quello che dice la BBC e che vi abbiamo già detto noi, sia l'ANSA, le agenzie ufficiali. E vediamo nei prossimi minuti. E vediamo nei prossimi minuti. C'è qualcos'altro che ti ha colpito, Oscar, dei giornali di oggi? Tante notizie, ovviamente. Ti dirò che mi ha molto fatto sorridere su il tema la spesa pubblica, l'economia, l'intervento che il presidente del Consiglio Gutkalt scrive sul Foglio, perché siccome erano usciti i conti, mi ha fatto sorridere, perché l'obiezione che io e altri muoviamo, nella fattispecie sta rispondendo Veronica De Romanis, che è un economista, la moglie di Bini Smaghi, l'ex membro del board della BCE, e noi gli diciamo: sentite, piantatela di dire che avete fatto tagli per 25 miliardi, perché non li avete fatti, perché il totale della spesa complessiva continua, sia pur a ritmo meno veloce di prima, a salire, e comunque 25 miliardi di euro di saldi di meno spese voi non l'avete fatto. E a questa contestazione, citando precisi documenti del MEF, pubblicati sul portale del MEF, quindi non ci possono dire che non abbiamo ragione, come al solito Gutkalt scrive dicendo: beh vabbè, la mettete così, e inizia a scegliersi alcuni anni di raffronto tra i paesi che noi citiamo per dire che hanno tagliato la spesa pubblica molto più di noi. L'Italia, lui cita un paio d'anni qua, un paio d'anni là, e dice: in questi due anni l'Italia ha fatto meglio. Sì, ma in quelli precedenti no. Insomma, è un modo di fare che è un bel esempio di come la politica si rigira ai numeri, secondo me. Quindi mi ha fatto molto sorridere. Ma te l'ho detto questo, che in Italia i numeri sono creativi. Sono creativi, cioè non è detto che uno più uno faccia due, soprattutto quando e poi, si parla di alcune c'è cose. C'è un giornale, gli altri praticamente quasi non se ne occupano, che dà questa volta, secondo me, un giusto rilievo. Sto parlando del Fatto Quotidiano, il fatto che ieri il Quirinale ha detto alle proposte di nomine del Presidente del Consiglio sui servizi interni, sull'AISI e sulla Guardia di Finanza: no, aspettiamo, caro mio. Facciamo solo quella dell'aeronautica. Anche il Corriere parla di clima non cordiale. Il punto centrale è sempre la nomina di Marco Carrai, fedelissimo di Renzi, che a Renzi questo vorrebbe... ufficio di sicurezza cibernetica vorrebbe collegato alle nomine dell'AISI, ma pare che siano anche i candidati sia per la finanza che per l'AISI, cioè per i servizi interni. Allora, noi dobbiamo andare in pubblicità, ci sono le prime immagini che ci sono delle colonne di fumo dall'aeroporto di Bruxelles, dove, ripetiamo, ci sono state due esplosioni. Anche il quotidiano belga Le Soir parla di testimoni che riferiscono di feriti. In questo momento le esplosioni sarebbero avvenute pochi minuti fa, come ha raccontato la BBC. Non ci sono i motivi, non ci sono le cause, non ci sono ulteriori notizie. Ci sono le prime immagini che vediamo che dall'interno dell'aeroporto, colonne di fumo che si alzano da due edifici, si vedono anche persone che fuggono dopo queste due esplosioni. Vi terremo aggiornati, ovviamente. Dopo la pubblicità parleremo di Roma, ma tutti gli aggiornamenti su questa vicenda di Bruxelles in diretta. State con noi. Siamo qui, caro Oscar. Allora, dobbiamo parlare della vicenda di Roma, ma dobbiamo dare aggiornamenti su quello che è successo a Bruxelles, ricordiamo. Sì, direi che le prime immagini che vedo qua sul sito di Le Soir, mi sembra difficile immaginare che sia una cosa dovuta a uno spostamento d'aria, sì. Insomma, perché si vedono in uno dei saloni alle partenze moltissimi pannelli e devastati. Sì. Sì, ci sono state due forti esplosioni all'aeroporto di Bruxelles, che in questo momento è stato evacuato, chiuso al traffico aereo e al traffico ferroviario, insomma è impossibile giustificare giustamente accedere. Il problema è che per il momento non si capisce l'origine di queste due esplosioni. Il timore è anche dalle fotografie esterne dell'aeroporto di Zaventem a Bruxelles, per chi ha idea, siccome sono tutti pannelli di vetro, vetro e cemento, moltissimi dei pannelli di vetro sul perimetro esterno dove si va per i taxi sono tutti saltati, quindi sì, l'esplosione deve essere stata significativamente forte. Tra l'altro un testimone, una radio belga, dice che era in coda, ha sentito un'esplosione, fumo e poi un'altra esplosione, quindi due successive esplosioni. Anzi, che... nuove fotografie ancora su Soar, quest'altra parte che è quella invece per delle uscite... Beh, questa devo dire che è veramente molto devastata l'aspetto esterno, quindi l'esplosione è stata forte. Si parla anche di feriti, questo almeno raccontano le prime testimonianze un pochino confuse. È stata la BBC online a lanciare la notizia a livello mondiale. Noi ovviamente siamo qui a dare qualsiasi tipo di aggiornamento. Dopodiché stiamo parlando della vicenda Roma. Abbiamo due ospiti che vogliamo salutare. Sono Alfonso Sabella, che è stato assessore, buongiorno, è magistrato, ha scritto anche un libro, Capitale Infetta, edito da Rizzoli. Salutiamo anche Sergio Rizzo del Corriere della Sera, buongiorno Sergio, ben ritrovato. Buongiorno a tutti. Ovviamente capirete, cioè, nel caso di aggiornamenti vi daremo aggiornamenti riguardo a questa notizia drammatica che arriva da Bruxelles. Sabella, lei è rimasto colpito da quello che Tronca ieri ha reso noto, no? Casi, si diceva anche qui con Oscar Giannino, di clientele vere e proprie? Assolutamente no, nel senso che sono dati che in qualche modo erano già venuti all'attenzione della precedente giunta, perché un monitoraggio degli immobili di Roma Capitale era stato avviato già dal sindaco Marino e i dati erano più o meno questi, cioè ovvero lo sconforto assoluto di un patrimonio di Roma immenso e fuori controllo. Oscar, lei pensa che il fatto che sia da una parte immenso, cioè 28.000 unità immobiliari, dall'altro fuori controllo, il fuori controllo secondo lei configura inerzia, incapacità di sapere gestire tutto con un database adeguato, oppure come è legittimo sospettare altro? Io ho nel mio libro sostenuto, purtroppo con due brutte espressioni che non so se sia il caso di ripetere alla radio, quali sono i mali di Roma e da cui poi si trae, nasce e si alimenta il malaffare. Io dico semplicemente che alla base c'è una poca voglia di lavorare da parte di molti burocrati della macchina amministrativa capitolina, dall'altra c'è una forte propensione di questi a trovare la soluzione migliore per non passare guai, per non correre rischi. Le ho sintetizzato con due termini che non ripeti radio, e tutto ciò porta poi i cattivi, i furbetti, i delinquenti, perché chiamiamoli col loro nome, ad approfittarne e a trovarsi situazioni e costi preferenziali per far affermare il malaffare invece dell'interesse pubblico. Insomma, ma questi due termini sono così ripetibili. Glieli dico, sono il fancazzismo e l'ad culum parandum. Sono le due logiche. Ad culum parandum, non è male. Cioè, esatto. Insomma, sono anche abbastanza chiari, non c'è bisogno di tradurli dal latino, ecco, in questo caso. Perché lei a questi microfoni, Isabella, quando finì l'avventura Marino, ci disse chiaramente Roma è ingovernabile. È ancora di questo parere? Sono del parere che chiunque sarà chiamato a governare questa città deve per prima cosa mettere ordine nella macchina amministrativa, nelle strutture burocratiche, dotarsi di una struttura di controllo rigorosa, rigida, che è quello che stavamo cominciando a fare noi, devo dire la verità, qualche risultato già l'avevamo portato a casa, ma bisogna andare secondo me in quella direzione, perché è l'unica possibile: incrementare i controlli, ridurre il numero delle stazioni appaltanti e soprattutto dotarsi di una classe dirigente adeguata a livello di Roma Capitale, cosa che, devo dire la verità, io a Roma non ho trovato. Non ha trovato. Sì, Oscar, prima di passare a Sergio Rizzo, le agenzie ora dicono quello che tu ci hai detto pochi minuti fa, cioè le immagini della devastazione degli ambienti colpiti da due esplosioni all'aeroporto di Bruxelles, no? Sì, io devo dire, è vero che è tutto vetro, cioè, però io mi auguro che questa devastazione che si vede dalle strutture esterne non corrisponda a un bilancio preoccupante. Sai, la hall partenze che è devastata, e c'era gente che racconta... Stiamo parlando della prima mattinata, non proprio esattamente... Gente che stava per partire, quindi insomma non è... Però speriamo bene e incrociamo le dita. Sergio Rizzo, tu da giornalista, insomma, queste cose le denunci da anni, di quelle che Tronca dice. Ci si chiede come sia possibile, se lo chiede il cittadino, come sia possibile che tutto sia andato avanti, no? nella trascuratezza. Oscar prima parlava di clientelismo, e quindi sono clientele e le clientele si reggono così, anche con l'impunità. Certo, no, me lo chiedo anch'io, visto che mi pare di aver scritto il primo articolo su questa vicenda all'inizio degli anni 90, quindi parliamo di quasi un quarto di secolo fa. Quindi già allora si parlava del fatto che il Comune di Roma non sapeva nemmeno quanti immobili avesse, c'erano situazioni di usucapione, cioè gli inquilini che erano diventati proprietari dell'immobile che occupavano, perché erano ormai talmente tanti anni che erano lì dentro e non c'erano documenti che attestassero la proprietà comunale, per cui non erano diventati proprietari. Quindi la situazione è fuori controllo da tempo immemore, ma qui c'è il tema che sollevava Sabella, si incrocia maledettamente con un'altra questione, cioè la questione per cui purtroppo nella pubblica amministrazione italiana, e non è soltanto a Roma, no? Il tema della cosa di tutti e la cosa di nessuno purtroppo è molto diffuso, no? E quindi c'è questa da una parte il fancazzismo e l'ad culum parandum, come dice Sabella, sì, sono due regole auree. Però d'altra parte c'è anche, come dire, una indifferenza di fondo che io sinceramente faccio fatica a immaginare una cosa del genere in Francia, in Gran Bretagna, in Germania. Aspetta, Sergio, ti devo interrompere perché sul sito di Le Soir compare un primo del tutto provvisorio bilancio lanciato anche da CBS che parla di 11 morti all'aeroporto di Bruxelles. Purtroppo sì, incrociamo in questo momento questa notizia che ricordiamo riguarda l'esplosione. Passa tutto in secondo piano. No, è chiaro, purtroppo... però noi facendo rado dobbiamo aggiornare, e come giusto che sia, anche perché queste due esplosioni che han colpito l'aeroporto di Bruxelles, si parla appunto, dici, Le Soir, che è un giornale autorevolissimo in Belgio, parla di 11 morti. Questo è il primissimo bilancio. Primo bilancio. Dicevi Sergio appunto che... Sono tutti articoli che tu hai denunciato, ma ci voleva il commissario Tronca per fare cosa? Non rivelare una cosa che tutti sapevano, ma per portarla al primo punto dell'agenda? Secondo me la vera differenza che c'è rispetto alle denunce precedenti, perché ce ne sono state tante, poi anche lo stesso Sabella ricordava che Marino stesso aveva già avviato, è che per la prima volta si parla di responsabilità, cioè si parla del fatto che qualcuno ha fatto delle cose che non andavano fatte o non ha fatto le cose che andavano fatte e deve rispondere di questo. Io ricordo il primo comunicato che venne emesso dalla gestione commissariale, mi pare che fosse la metà di febbraio, se non ricordo male, no? Parlava proprio di questo, parlava del fatto che si sarebbe provveduto ad accertare le responsabilità. Ora io non so a che punto sia questo accertamento, so però che sono state mandate in procura delle carte, mi risulta degli elenchi, delle liste di funzionari che si sono avvicendati alla guida di quei dipartimenti nel corso degli anni. Quindi lì c'è da pensare, c'è da supporre che ci saranno anche delle difficoltà, perché... C'era anche da capire qualcosa anche. Sabella, da magistrato, cosa si può fare? Cioè, si può andare? Praticamente noi lavoriamo con una norma che è l'omissione di atti d'ufficio nella migliore delle ipotesi, che nei casi più clamorosi sarebbe irrimediabilmente reato prescritto. Dall'altro lato potremmo parlare di responsabilità contabile, ma anche qui abbiamo la spada di Damocle della prescrizione che pende sul capo di queste situazioni. Io credo che poi in concreto, al di là delle responsabilità penali e contabili che si possono accertare in capo a taluno, la cosa su cui invece bisognerebbe lavorare è quella delle responsabilità disciplinari, nel senso di dire almeno avere degli strumenti, che credo che in questo momento siano insufficienti, per dire io quel dirigente in quel posto non ce lo voglio più, e se ha sbagliato troppo io lo mando a casa. Addirittura non solo non gli faccio fare il dirigente, ma lo mando a casa. Questo è qualcosa che bisognerebbe fare, ma in Italia sappiamo perfettamente che prevarrà sempre la logica del padre di famiglia di non togliere il pane a chi porta lo stipendio a casa dei bambini, e quindi su questa logica del nostro buonismo diffuso qua sopra la cosa pubblica se ne va va in disarmo. Ecco, un'espressione le veniva forse. Io racconto nel mio libro di esperienze di funzionari, non so se fossero infedeli, questo lo deciderà la magistratura, ma certamente non preparati, che ho avuto difficoltà enormi a togliere dallo stesso posto dove erano e che mi sono ritrovato ricollocato in un posto analogo a distanza di 2 mesi, 3 mesi da quando l'avevamo mandati via da quel determinato incarico. Certo. Questa purtroppo è una realtà seria. Noi non abbiamo la responsabilità. In una società privata il dirigente che non porta a casa i risultati normalmente viene licenziato. In una società, nello Stato, il dirigente che non porta a casa i risultati viene spostato nella migliore delle ipotesi, e nella migliore delle ipotesi ha un altro incarico. Su questo io credo che bisogna lavorare molto, sì, anche a livello normativo. Però ci dice Sabella, perché ci ha incuriosito a me Oscar, è vero che lei lavorerà adesso con Renzi o comunque collaborerà? Allora, questa cosa è uscita sui giornali, io devo dire la verità, ho avuto qualche contatto in questa direzione per dare una mano sul piano dell'anticorruzione, della trasparenza, anche a Palazzo Chigi, però la cosa è tutt'altro che concreta, insomma, in questo momento. Il CSM ha deliberato che io debba andare a Napoli, io ho già preso contatti col presidente del Tribunale di Napoli per sapere dove devo andare a lavorare. Quindi mantiene fede a quello che aveva detto, infatti no, fare il magistrato. Sono un magistrato, esatto, ho detto sempre che sono disponibile a svolgere ruoli tecnici per Roma, che è diventata la mia città, e quindi qualunque tipo di ruolo tecnico dove mi si dia ovviamente autonomia e indipendenza sono disponibile ad assumerlo, a svolgerlo, anche perché sul piano personale devo confessare che per me lasciare Roma è una grossa tragedia. Però è chiaro che questo non comporta alcun tipo di impegno politico da parte mia. Nel frattempo do altri flash, perché esatto, c'è prima missione di morte da parte della Polizia Federale. Il governatore del Brabante ha avviato il piano anticatastrofi provinciale per l'intero Brabante, per l'intera provincia, per l'intera regione. Interrotto anche il traffico ferroviario. La prima ricostruzione parla di 2 esplosioni, una nella parte delle partenze dove sono concentrate le maggiori compagnie americane, un'altra a grande distanza da quel posto. L'evacuazione intanto è in corso e per il momento non ci sono però cifre attendibili. Certo, c'è da dire con quello che è successo a Bruxelles che la Polizia Federale, dicono le agenzie, parla di un morto accertato, ma come dicevi tu prima Oscar, Le Dernière Heure per esempio, come giornale, sito locale, dice che i morti sarebbero almeno 11. Certo, la cifra precisa in questo momento non c'è. Quello che si può dire è che possiamo dire queste 2 esplosioni dovrebbero essere proprio un attentato, ecco. Così sembra, vedere dagli effetti che hanno sulle strutture, perché per il momento non abbiamo altre fotografie. Guarda quest'altra agenzia: altre bombe sarebbero state ritrovate all'aeroporto di Bruxelles dopo l'esplosione di questa mattina. I vigili del fuoco sarebbero la fonte è VTM, un sito, citando vigili del fuoco, parla di bombe ritrovate a Bruxelles. Allora noi facciamo così, intanto ringraziamo Sergio Rizzo del Corriere della Sera, ringraziamo Alfonso Sabella, ex assessore alla legalità a Roma, magistrato e autore del libro Capitale Infetta. Però Oscar, in questi 3 minuti cerchiamo di ricostruire insomma quello che è successo. Ci siamo svegliati con questa terribile notizia a Bruxelles. Le notizie di queste esplosioni all'aeroporto di Zaventem, nella parte dell'aeroporto in cui si concentrano i banchi per le partenze, e la notizia è iniziata a rimbalzare dai primi minuti dopo le 8. 2 esplosioni, questo è quello che fino a questo momento le fonti attestano, e dai danni alle strutture esterne in vetrocemento all'aeroporto, per chi conosce l'aeroporto di Bruxelles è tutto così, si tratta di esplosioni che hanno avuto un'onda d'urto notevole, perché vi assicuro che a guardare le fotografie il danno è molto rilevante, quindi è impossibile pensare che non ci siano danni alle persone concentrate per le partenze. Il bilancio delle vittime per il momento è del tutto provvisorio, la Polizia Federale solo pochi minuti fa ha ammesso che vittime ci sono, c'è un primo invece bilancio secondo il quale del tutto ufficioso di un sito rilanciato dalla CBS che parlava di almeno 11 morti. Nel frattempo le autorità del Brabante hanno fatto partire un piano di emergenza che riguarda l'intera provincia e sospeso il traffico sia ferroviario al terminal della stazione che la connessione con l'aeroporto, quindi l'aeroporto che è in corso di evacuazione è del tutto isolato per consentire le indagini, esatto, e l'identificazione di nuove bombe. Tra l'altro, Oscar, poco fa dicono che le esplosioni sono state presso il desk dell'American Airlines, quindi di partenze verso gli Stati Uniti. Questo lo riferiscono anche le agenzie. Ripetiamo, aeroporto di Bruxelles colpito da due esplosioni presso l'area d'imbarco. Ecco, vedi che circolano le foto adesso anche delle TV di quello che tu ci descrivevi, cioè l'area completamente devastata, sì. Vetri frantumati, tutti gli arredi per aria e il timore che ci siano sicuramente un morto accertato secondo la polizia, ma che i morti possano essere di più, secondo alcuni media sono 11 almeno i morti. Detto questo, voglio dire, tenuto presente che da novembre, siamo a marzo, fine marzo, Belgio, insieme a nord della Francia, è al centro di la più elevata intensificazione di forze, di polizia speciali, dei servizi, eccetera, eccetera, dopo quello che è successo al Bataclan. E pensare che dopo pochissimi giorni, due giorni in cui si è riusciti a peccare Salah a Molenbeek, ci sia all'aeroporto di Bruxelles, succede questo. È incredibile. No, infatti noi ci dobbiamo fermare qui, ma questo è il classico caso in cui non dovete abbandonare neanche per un secondo Radio 24, perché vi daremo tutti gli aggiornamenti tra poco nel giornale radio, poi nel corso delle trasmissioni, tutti gli aggiornamenti su quello che è successo questa mattina a Bruxelles. Due esplosioni, probabilmente attentato e vittime probabilmente. Grazie per essere stati con noi, a domani. A domani.